conclusione più grave, più triste, è questo 20%, 30% in più che abbiamo noi sull'energia, in particolare elettrica, rispetto agli altri paesi europei, OCSE. E l'elettricità costa 20-30% in più. Questa è la conclusione di questa vicenda, ma vorrei anche tranquillizzare, non è che quanto accaduto in queste ore, in questi mesi, sia molto diverso da quello che accade negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, cioè ci inseriamo nel comportamento di lungo termine di questo paese caratterizzato dall'impossibilità di fare decisioni di grande respiro, di grande coraggio e di grande portata, ecco, perciò alla fine sì, scegliamo grazie alle liberalizzazioni tutti i cicli combinati che vanno tutto a gas. Adesso siamo l'unico paese al mondo che dipende così tanto nella generazione elettrica da gas importato, c'è l'UK che usa molto gas ma è tutto nazionale e niente, alla fine è questo, ecco, penalizzare il nostro sistema produttivo e anche, cioè questo, la cosa più pericolosa è che ci sia questo distacco dalla realtà, che è una realtà preziosa, ricca del nostro paese, che è l'industria, l'industria del fare. Noi abbiamo il dovere di dire come fornire di elettricità a condizioni più competitive e sicure questo sistema produttivo.